Steve a mis au point différents réservoirs. E ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Buongiorno, bentornati. Rieccoci alla nostra finestra sul cortile a curiosare come ogni sabato nelle pagine culturali dei giornali stranieri a caccia di novità e di spunti di riflessione. Oggi parleremo di stelle, stelle della musica e stelle della cucina. Come mai il mondo arabo non produce grandi star in campo musicale? Perché non c'è uno Zubin Mehta arabo, un Lang Lang musulmano? E passando dagli spartiti alle ricette, perché alcuni chef di chiara fama hanno deciso di rinunciare alle stelle Michelin? Musica e cucina sono gli ingredienti principali di questa puntata, ma intanto sentiamo cosa prevede d'altro il nostro menù. Stati Uniti. La musica non ha confini? Non quella classica che nel mondo arabo fatica a diffondersi. Francia. Dalle stelle alle stalle? Questione di punti di vista. Un cuoco francese rinuncia al prestigioso riconoscimento delle tre stelle Michelin. Washington. La corsa alla Casa Bianca non è finita. In gara i migliori chef. Inghilterra. Chi ha detto che i quadri sono una passione costosa? L'artista Adam Neat invade le strade di Londra con oltre 1000 opere che i passanti possono portare a casa gratuitamente. Corea. Lifting alle strade degradate della città. Un gruppo di 5 creativi trasforma i vecchi edifici in vere e proprie opere d'arte. Svizzera. La vita è troppo monotona? Ora i problemi si acquistano su internet. 3 cittadini elvetici creano un sito web per fornire fastidi e grattacapi ai loro connazionali annoiati. Polvere di stelle Michelin stiamo parlando, le stelle che la famosa guida gastronomica concede ad alcuni privilegiati che vengono considerati degli chef eccellenti. Uno di questi è Olivier Relinger, lo chef di Cancale, un ristorante sulla costa bretone, che annuncia al Figaro di avere rinunciato alle stelle, di aver respinto questa ambita onorificenza. E il suo nome si va ad aggiungere ad una serie di altri nomi famosi della cucina internazionale, compreso il nostro Gualtiero Marchesi. Ma sul Figaro Olivier Relinger spiega le motivazioni di questa sua decisione apparentemente assurda o autolesionistica. Invece lui dice è quasi una scelta di sopravvivenza, perché lui dice che quando arrivano le stelle Michelin, lui ne aveva ben 3, è chiaramente una benedizione, ma col tempo questa benedizione si tramuta in una dannazione, perché è vero che all'inizio tutti i banchieri ti srotolano tappeti rossi, ti fanno credito più facilmente, i clienti affluiscono in frotte, i giornali, la televisione parlano di te, tu diventi una specie di superstar, ma poi col tempo il fatto di dover rimanere alla altezza della tua reputazione e di poter meritare il rinnovo di queste stelle anche nell'edizione dell'anno successivo ti condanna ad un tour de force continuo. Praticamente la tua vita familiare è distrutta, non puoi più avere tempo libero o vacanze di nessun tipo. Lo chef diventa un divo perseguitato dalla propria fama. Dice Relinger, tenere un grande ristorante all'altezza delle tre stelle Michelin è come fare tutti i giorni Parigi, Los Angeles, un onore ma anche una tensione. Oggi la mia ricerca, dice al Figaro questo grande chef francese, è quella di una nuova serenità e di un benessere spirituale. È il benessere, la felicità che mi interessa più di ogni altra cosa e la voglio dividere tra cielo e mare, visto che sta in un luogo così ameno, così bello anche dal punto di vista naturalistico. Ma proprio per parlare di stelle e di quelli che alle stelle rinunciano, abbiamo in linea un ospite che salutiamo. Buongiorno Paolo Massobrio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Massobrio, lo conoscete tutti come giornalista, uno dei maggiori esperti italiani di enogastronomia, scrive sulla Stampa, sull'Avvenire, su altri giornali, anche direttore responsabile di Papillon, nonché l'autore del Golosario. Che cosa mi dice Massobrio di queste gran rifiuti degli chef più famosi? Hanno ragione andarsene via? Ma intanto dico questo, cioè sono casi e casi. La richiesta di Gualtiero Marchesi credo sia irricevibile, perché Gualtiero Marchesi in realtà fa una cucina che è la cucina premiata dalla guida Michelin, ha l'ambiente, continua a posizionarsi su quel livello. Il fatto è lì in Franciacorta, no? Se n'è andato in Franciacorta, sì. Poi adesso ha aperto anche il Marchesino a Milano. Allora, questo suo non voler essere giudicato è una proposta irricevibile, ripeto, cioè se sei sul mercato sei giudicato, e se ti giudicano bene va bene, se ti giudicano meno bene devi prendere atto di quello. Non è che Gualtiero Marchesi è intoccabile. È una scelta un po' snobistica, un po' aristocratica. Ma sì, lui certo, se vuole essere intoccabile esca dalla cucina e si goda la fama meritata che ha Gualtiero Marchesi di essere stato il padre della Nouvelle Cuisine in Italia, di aver portato un grande contributo alla cucina italiana. Lui insegna anche all'Alma di Colorno. Quindi voglio dire, certo. Però se lui si mette i fornelli è soggetto a giudizio, e non so, non credo che la guida Michelin gli tolga la stella perché lui ha detto che non la vuole. Credo che continuerà a giudicarlo come le altre guide che già sono uscite lo hanno giudicato in base alla qualità di questa sua richiesta. Certo. Diverso è invece il caso che tu hai citato di questo ristoratore francese o di un paio di ristoratori piemontesi, per esempio Nicola Battaglia del Birichin di Torino o il Flippò di Torre Pellice. Beh, loro hanno fatto quattro conti, hanno detto: da quando abbiamo la stella Michelin per il Flippò viene solo una certa clientela, ma adesso con la congiuntura fa meno viaggi, viene molto meno, i conti non tornano. Quello di Torino ha detto: ma la mia clientela normale si spaventa perché ho la stella, perché pensa giustamente che i prezzi, le pretese sono più alte, quindi non viene, e quindi non tornano i conti. Certo. Devo dire che un po' di responsabilità in certi casi ce l'ha anche la guida Michelin, che dà queste stelle secondo me senza, io non ho ancora ben capito il criterio. Non ho molta stima della guida Michelin, a dire il vero, ecco. È una guida molto francofona. Ecco, parliamone, parliamo delle loro scelte, ecco. Adesso il 20 uscirà la guida, so che è stata invitata tutta la stampa tranne me. Ci tengo a dirlo perché sono stato uno dei considerato critici, un reprobo. Uno dei critici più accesi l'anno scorso, quando fu un po' anche mortificata la cucina italiana, e quindi per punizione non mi invitano al pranzo di presentazione. Quindi funziona così anche la comunicazione, no? Ecco, ma puoi fare dei bravi e dei cattivi, certo. Tra i cattivi, ma continuo a dire che è una guida francofona che vuole promozionare un grande paese e quindi fa stare un attimino indietro gli altri, soprattutto l'Italia, la cui cucina è riconosciuta in tutto il mondo. Basta vedere cosa ha detto la moglie di Barack Obama, no? Che sì, impazzisce per la nostra cucina. Quindi sì, la rucola, no? Ecco, non ho una grande stima, ma soprattutto non capisco perché abbia dato certe stelle. Ma un siccome esempio, non conosco i criteri, non, sì, non mi permetto. Ecco, io do altri giudizi, certo, con le mie guide, tra l'altro sono anche diversi da quelli che dà la guida Michelin. Ecco, un esempio di grande esclusione che lei vedrebbe bene invece cancellata. Per esempio c'è un altro ristorante, il Tantris di Novara, ha la stella Michelin, è una stella che io francamente non capisco. Le guide lo giudicano in maniera modesta, ho visto 13,5 sulla guida dell'Espresso. Io lo metto negli altri locali, cioè sì. Ecco, quindi non riesco a comprendere l'arbitrio di questi criteri. No, qualcosa posso anche capire, eccetera. Mi pare che ci sia un peso importante alla cucina e anche all'ambiente. Ecco, proprio perché c'è un peso anche all'ambiente, non riesco a capire perché certi locali abbiano la stella. Sì. certi non l'abbiano mai avuta. A Maina c'è un ristorante straordinario, il 900, spero che li raggiungano quest'anno. Molto bene, grazie Paolo Massobrio, buona giornata e grazie. A presto. E rimaniamo sui temi gastronomici, ma andiamo in America e precisamente alla Casa Bianca. Sul Boston Globe, Debra First si domanda chi sarà il cuoco di Obama. E ci sono varie candidature, per esempio Rick Bayless di Topolo Bampo, un ristorante di Chicago che pare che sia uno dei più frequentati da Obama, dal nuovo presidente, ma anche Art Smith, che ha radici a Chicago ed è lo chef personale di Oprah Winfrey, e pare che in particolare Art Smith abbia una filosofia della cucina che è molto simile alle idee del presidente, insomma, con cibi genuini di fattoria, pranzi in stile familiare. Yes, we can cook. E adesso ci spostiamo in Svizzera, la tranquilla Svizzera, isola felice nel mezzo delle turbolenze mondiali. È così tranquilla che forse c'è il rischio di annoiarsi un po' troppo. La soluzione sta nel cercare guai, quanto offrono tre cittadini elvetici decisi a scuotere con brividi di suspense la placida esistenza di chi nasce troppo fortunato. Andando sul sito www.nideproblem.com è possibile acquistare problemi, fastidi, grattacapi, pagando il tutto a seconda della difficoltà insita nel proprio acquisto, perché se un problema da pochi franchi si risolve subito, con l'aumentare delle tariffe i gestori del sito promettono un considerevole aumento dei mal di testa e dei mal di pancia, un business insolito ma che pare riscuota un certo successo. Anche perché se qualcuno si pente dell'acquisto, beh, quelli sono problemi suoi. La finestra sul cortile. Tutti ricordiamo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Pechino con il pianista Lang Lang che suonava il pianoforte insieme a una bambina e suonava musiche di compositori occidentali. E del resto la Cina è diventata forse il vivaio più grande del mondo di giovani pianisti, violinisti che stanno invadendo le orchestre di tutto il mondo. Ma non lo stesso si può dire del mondo musulmano e arabo, dove viceversa la musica classica occidentale, ma anche la musica contemporanea, anche la musica rock, o per non parlare dell'heavy metal, hanno vita difficile o addirittura sono del tutto bandite. Di questo parlano Ibn Warraq e Rafael Ismail in un articolo sulla New English Review americana. Citano in particolare un battibecco che ci fu anni fa tra Bernard Lewis, il famoso islamista di Princeton, e Edward Said, lo scomparso intellettuale palestinese della Columbia University, che litigarono proprio sui rapporti tra Occidente e mondo islamico in materia musicale. Bernard Lewis aveva sostenuto che la musica classica occidentale era parte della cittadella più intima della cultura occidentale, una cittadella in cui gli arabi non volevano entrare, al contrario dei giapponesi, dei coreani o dei cinesi che appunto hanno allevato un'intera generazione di esecutori, di professionisti, sì, direttori d'orchestra e addirittura compositori di fama internazionale. Edward Said scrisse poco dopo l'11 settembre del 2001 che in realtà c'erano delle orchestre di musica classica in varie capitali del mondo arabo, ma così non è secondo gli autori di questo articolo della New English Review, cioè resta il fatto che il mondo arabo non produce grandi musicisti e che se uno va a leggersi i testi sacri dell'Islam, la musica viene sempre definita come qualche cosa come un divertimento, uno svago inopportuno che corrompe gli animi e conduce all'errore allontanando dalla fede. Addirittura si cita per esempio una intervista della nostra Oriana Fallaci all'Ayatollah Khomeini, nel quale l'Ayatollah rispose che non sapeva chi fossero Bach, Beethoven o Verdi. Viceversa, l'unica eccezione, si dice in questo articolo, nel mondo musulmano è la Turchia, dove proprio grazie a Atatürk, all'occidentalizzazione forzata, la musica veniva insegnata nelle scuole, e poi già nell'Ottocento alla corte ottomana arrivavano esecutori e sia bande militari occidentali sia grandi compositori come il nostro Donizetti. Ma intanto ci ha raggiunto al telefono il nostro ospite che salutiamo. Buongiorno Zubin Mehta. Buongiorno. Il maestro Zubin Mehta, che tutti conosciamo, si divide oggi tra Firenze e Valencia e giovedì prossimo dirige l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino nel Siegfriedo di Wagner con nell'allestimento della Fura das Baus. Zubin Mehta è indiano, è nato da una famiglia Parsi a Bombay e suo padre fu un pioniere della musica occidentale in India, tra l'altro fondò la Symphonic Orchestra di Bombay e poi ha studiato con Claudio Abbado a Vienna, insomma tutti conosciamo il suo grande repertorio anche tardo romantico di musica classica occidentale, ma ha anche diretto per esempio la London Philharmonic Orchestra con un suonatore di sitar come Ravi Shankar. Insomma, quindi questa fusione tra tradizione indiana e occidentale, perché non si può fare con la musica araba, maestro? Perché io non sono esperto della musica araba. Sì, lei ha accennato che la musica occidentale sviluppa con ragione, naturalmente, a Giappone, Corea, Cina, certo. Ma sta crescendo anche in India. Sì. Però la differenza è che India ha una musica sua, di ogni settore di India ha una musica diversa, che è molto sviluppata, che non troviamo a Giappone, Corea e Cina. E per quello credo che i cinesi, coreani e giapponesi hanno adottato più svelto la cultura occidentale. C'è un trapianto noi più facile. Noi non abbiamo veramente bisogno, però naturalmente c'è talento indiano, ci sono direttori d'orchestra indiani, adesso crescono anche i violinisti, si trova nelle orchestre americane e europee anche qualche indiano, ma non come lei ha detto, come i cinesi, i coreani, no. Che se lei vede un'orchestra americana oggi, 10-15 violinisti o cellisti sono della Cina, è vero, però la musica non è sviluppata così fino ad oggi nei paesi arabi, ecco, perché anche i ortodossi, i ultra-ortodossi sono contro questo divertimento, come lei ha molto giustamente detto, che questo divertimento non è veramente già dal profeta prolificato. Condannato, ecco. Sì, ecco, sì. Ma per esempio facciamo l'esempio di Wagner, visto però che lei... ci sono, ecco, piccole orchestre, a Oman c'è un'orchestra, sì? A Amman in Giordania c'è un'orchestra, Egitto, Cairo ci sono due orchestre. Allora cominciano, ma non a livello che naturalmente possono andare in tournée, cioè, o fare dischi, no? Ecco, ma oltre a questo, ecco, diciamo, c'è, a parte diciamo le condanne del profeta o degli scritti, dei testi sacri dell'Islam, se vogliamo andare a vedere anche il messaggio che viene da una certa musica, pensiamo a Wagner, pensiamo al ciclo dell'Anello dei Nibelunghi, c'è un messaggio molto pagano e politeista, no? Sì, ma questo, come gli arabi anche non conoscono tutta questa parte della nostra cultura, anche non tocca loro. Però devo dire, in Israele ci sono pianisti arabo-israeliani con molto talento. Il mese passato io ho fatto un concerto di Mozart con un giovanissimo ragazzo di Nazareth, e allora anche lì cresce il talento. Per esempio Daniel Barenboim ha fondato questa orchestra, sì, sì, con israeliani e palestinesi, sicuramente ci saranno dei musulmani tra questi sì, musicisti. Sì, la maggior parte sono musulmani. Mm. E chissà come l'ha presa Hamas, probabilmente non no, bene. No, è una cosa molto sana, e anzi proprio l'unico forum dove ebrei e arabi sedono insieme a fare la musica. È una cosa sanissima. E sicuramente può essere la musica anche proprio un canale di comunicazione tra mondi che si fanno la guerra. Potrebbe essere. Ecco, le faccio una domanda che prescinde un po' da questo tema e che però è molto d'attualità in questi giorni. I teatri lirici sono in crisi, si parla di tagli, si parla addirittura di commissariamento di alcuni teatri. Lei che cosa suggerisce al ministro Bondi, maestro? Io sono già ginocchiato davanti al ministro Bondi con una preghiera con mio collega Riccardo Muti. Sì. Che di pregarlo veramente proprio in Italia non tagliare fondi, proprio in Italia dove la cultura quasi nata, come noi conosciamo, come l'opera nata a Firenze, proprio Italia non può trovare 500 milioni per 14 teatri e il cinema, io non posso credere, veramente. Quindi, ecco, concludiamo con questo appello al ministro Bondi, insomma, salviamo... No, tutto il governo, non solamente il povero ministro Bondi, che anche i suoi mani sono un po' legati. Certo. Comincia dal Ministero dell'Economia. Certo, è logico, sì. Infatti. E insomma, di allargare i cordoni della borsa. Io sono pronto ad andare con il ministro Bondi al Ministero di Economia a fare questo appello. A battere cassa, ecco. Sì. Ma non a fondo perduto, solo per salvare la tradizione musicale italiana. Per favore. Ecco, grazie maestro. La ringraziamo anche di questo. Buona giornata e buon lavoro. Sì. A presto. E adesso voliamo in Corea, sul quotidiano Yonhap Daily leggiamo di una singolare iniziativa in una contea del paese che viene spesso sommersa dalle acque del fiume Han, e dove un gruppo di artisti da strada, per consolare gli abitanti di questa loro disgraziata esistenza, si sono messi a dipingere le case. Il titolo è proprio il titolo dell'articolo, è A Splash of Color, A Dash of Hope, uno schizzo di colore, un barlume di speranza. Anche rinnovare le strade può portare un po' di buon umore. E restiamo in tema di street art, ma ci spostiamo in Inghilterra. Sulle colonne dell'Independent on Sunday, Rachel Shields ci parla di un artista, appunto uno street artist, Adam Neat, che è il protagonista di una singolare iniziativa, una mostra per le strade di Londra, in cui le sue opere, sculture e dipinti, ben 1000 di queste opere, verranno depositate sui marciapiedi di Londra e potranno essere prelevate gratuitamente da chiunque le apprezzi e se le voglia portare a casa. L'artista Adam Neat è uno dei più famosi street artist inglesi e ormai le sue opere valgono 43.000 sterline l'una, e proprio nel momento in cui ci sono le aste, in cui le grandi case d'aste cominciano a risentire i morsi della crisi finanziaria con dei flop anche clamorosi, e questa iniziativa controcorrente vuole rilanciare il concetto che l'arte non ha un valore solo monetario. Anche i graffitari ci decorano gratis i muri delle case, per esempio a Milano, e noi non li ringraziamo neppure. E per oggi è tutto, si richiude la nostra finestra sul cortile. Ringrazio Laura Marchesi e Daniele Casagrande in redazione, Valeria Bernardi in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora. Buon weekend a tutti.